Sai che c'è? Che per te ho apposta uno spazio nella testa. Che calpesta ogni mio altro pensiero. Sai che c'è? Che per te ho apposta uno spazio nella testa. Che calpesta ogni mio altro pensiero. Voglio affogare le mie mani nei tuoi jeans. Ah, fosse un film, la storia già scritta. Con il rosso sullo specchio, col tuo morso sull'orecchio. Con rimorso che se mi perdo di nuovo mi berno. Già sappiamo l'inferno, com'è fatto però. Io non voglio tornarci, tu mica lo so. La notte uccide il giorno uccide l'alba. Ho addosso il tuo lucida labbra. Quando ti incazzi ormai somiglia un po' a me. Non c'è nessuno che lo fa come te. Tu mi sai strappare ad un freddo cane, iniziare a correre. Sai che c'è? Che per te ho apposta uno spazio nella testa. Che calpesta ogni mio altro pensiero. Sai che c'è? Che per te ho apposta uno spazio nella testa. Che calpesta ogni mio altro pensiero. Oh mia baby, oh mia lei. Se sto meglio, se sto in piedi, perché sei qui. Non lo so, non te manchi. Anche se sai scrivermi, io come stai me lo chiedo. Spesso fermo a pensarti. Sa ieri stavo in certi posti neri. Quando vedi come perdi, resti in quei guai. Non so, non so se ti amo pure un minuto dopo. Sai che c'è? Che per te ho apposta uno spazio nella testa. Che calpesta ogni mio altro pensiero. Sai che c'è? Che per te ho apposta uno spazio nella testa. Che calpesta ogni mio altro pensiero. Fly, I don't know.